Dopo il fallito tentativo di sfratto che è avvenuto a febbraio, ci siamo ritrovati una mattina con l'ufficiale giudiziario e la polizia qui davanti che volevano chiudere la nostra associazione. Si è di nuovo aperta una trattativa con il comune e l'ACER. L'ACER è proprietaria dello spazio in cui c'è la nostra associazione. Diversamente dalla prima trattativa che si era aperta con l'ACER, che ci portava a pagare il piano di rientro più il canone di locazione per un totale di 700 euro, per noi abbastanza insostenibili. Dopo il tentato sfratto si è aperta di nuovo la trattativa. Cosa è cambiato? Diversamente dalla prima trattativa siamo arrivati a un accordo. Il comune si è impegnato a pagare il nostro canone di locazione all'ACER, mentre a noi rimarrà da pagare il piano di rientro che si aggirerà sui 200 euro e le utenze. E questa per me è una grande vittoria, perché dopo anni di battaglia è stata riconosciuta la funzione sociale del nostro spazio. È stato riconosciuto che il nostro spazio è non solo un'associazione ma anche un presidio qui in quartiere, e quindi siamo molto contenti. La scorsa settimana era stato annunciato anche al Katia Bertasi piano del comune di farci appunto rientrare in questo progetto tra ACER e il comune, che porterà a sollevare molte serrande qui in quartiere che sono chiuse da anni, per darli ad associazioni e realtà che operano sul territorio. Quindi è una vittoria questa per noi e siamo molto contenta. Quindi è stato comunque determinante anche l'intervento del comune per il riconoscimento anche del ruolo che svolgete nel quartiere. Esatto, è stato molto importante il riconoscimento del comune, anche se in realtà un riconoscimento c'era già stato dato, in quanto il comune e i servizi sociali ci hanno sempre inviato persone a venire nel nostro spazio, sia per lo spazio compiti, lo sportello legale. Comunque eravamo a supporto del comune con molti servizi, e adesso con questo annuncio qui è arrivata il riconoscimento definitivo del comune, della nostra funzione. Più o meno quante persone frequentano la Casa del Mondo? Offriamo diversi servizi, e quello principale possiamo dire che è lo spazio compiti sia per i bambini e bambine delle elementari, delle medie, e offriamo anche un servizio di tutoraggio per i ragazzi e ragazze delle superiori. Quindi diciamo, se parliamo di bambine, ragazzi e ragazzi, si aggirano sulle 50 persone. Poi abbiamo anche lo sportello legale, intorno a noi ruotano anche tante altre persone che vengono per la biblioteca, per gli eventi che proponiamo, che siano presentazioni, che siano laboratori. Quindi diciamo che più o meno un centinaio di persone ruotano intorno alla nostra associazione. Ne approfitto qua anche per invitare la città alla festa che daremo domenica 11 maggio per il secondo anno, Mamme che Festa, nel giorno della festa della mamma. Le mamme sono il cuore, sono al centro delle nostre azioni, e quindi per il secondo anno ci teniamo a celebrare le mamme e le reti materne qui in Bolognina.